Buonasera dalla vostra emittente preferita. Si chiama Blu Radio Veneto e questa è la voce di Agostino a tenervi compagnia fino alle 22.30 con Maurizio Calzavara. Questa sera io sono sinceramente particolarmente molto ma molto emozionato. Vi ricordo innanzitutto il nostro numero telefonico in studio, che poi magari, anzi i vostri sms se volete chiacchierare con noi, insomma, e quindi anche con fare qualche domanda a questo grande artista che avremo in diretta, cioè 346 23 20 0 33. Buonasera Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Abbiamo in linea un personaggio che io reputo una parte di me, cioè nel senso del mio cuore, perché io ho vissuto le sue canzoni, cioè le canzoni di suo padre, in una maniera splendida, in una maniera enorme. Suo padre mi ha insegnato tantissimo. Suo padre si chiamava Pierangelo, lui si chiama Alberto Bertoli. Buonasera. Ciao. Alberto. Ciao. Ciao, buonasera. Ciao a te. Come stai? Ma abbastanza bene, non c'è male, a parte il freddo. anche qua è così. Com'è il tempo lì? Ma in realtà non è neanche così nuvolato, però sì, sta venendo un bel freddino, un po' anzitempo, quindi... Ma è la musica che scalda, Alberto, il freddo si sopporta, ma è la musica che scalda. Ma infatti suoniamo come dei matti per riscaldarci. Ecco, appunto. Anche perché vi date veramente di tutto e di più sul palco, giusto? Già. Non c'è male. Allora, Alberto, che ci racconti di bello? Innanzitutto, sono 8 anni che è scomparso tuo padre, il 7 di ottobre. Il 7 di ottobre, sì, di 8 anni fa, se n'è andato mio padre. Sembra che, tra l'altro, voglio dire, sia andato... Non a caso sia stata usata la parola se n'è andato, perché già era un pochino dimenticato, dopodiché hanno preso la palla al balzo per far finta di niente per un altro po', no? Infatti. E questo mi ha fatto molto male, perché io pensavo che, vabbè, insomma, capita a tutti gli artisti di essere, penso, di avere dei momenti di down e dei momenti invece in cui si è molto famosi. E invece, quando invece si è presentata la sua morte, io pensavo che ci sarebbe stato un ritorno, un modo per dire questo è qualcuno che ci ha dato qualcosa. Cioè, io qualche anno fa andavo in giro per le città e mi ricordo che fermavo i miei amici ogni tanto e dicevo: anche qui c'è un segno di mio padre, perché mio padre aveva fatto, era veramente cambiato l'Italia, no? Cioè, aveva fatto questa pubblicità per gli handicappati, per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per praticamente le cabine telefoniche, e questo era in tutta Italia, no? E quindi c'era un segno tangibile proprio del fatto che mio padre era passato anche da quei punti lì, insomma, no? Insieme a tutta la campagna, mica solo lui, però insomma c'era questa cosa qua. Adesso bisogna farsi proprio largo, cioè non a me piace molto Fabrizio De André, io lo amo, lo stimo tantissimo, però diciamo che c'è una disparità un po' iniqua, ecco. Ho capito. Dobbiamo sottolineare una cosa, Alberto, che al centro del mondo in Italia c'era l'Emilia, quindi c'era Sassuolo, c'era tuo papà, c'era Caterina Caselli, c'erano i Nomadi, c'era Ligabue. Il centro del mondo era l'Emilia, musicalmente parlando. Sì, è vero, è vero. Quindi, tra la via Emilia e il West, per niente. Quindi, tanto per citare uno che era molto amico di tuo papà, insomma. Sì, esatto. Quindi, insomma. È veramente così, in effetti c'era una sorta di New Jersey, no? Esatto, di New Jersey, hai detto una cosa giusta. Questo sound pseudo-americano portato dalle università dalla fine della guerra e via, si è sviluppato, si è cresciuto, è diventato importante. E tuo papà è stato uno dei cardini del suono emiliano, secondo me. E tu lo continui, chiaramente. Io sì, lo continuo. Io volevo dire che la sua biografia, non autobiografia, la sua biografia è intitolata con una sua frase proprio a questo proposito, perché mi chiedono sempre se l'emilianità c'entra. Io penso che c'entri, non so perché c'entri o meno, lo so, però non ne ho la certezza. e la sua biografia si chiama un Emiliano tragico, non è un vero Emiliano. In effetti è un po' così, no? Cioè noi siamo incazzati, solari, però anche un po' incazzati. È difficile, anche Vasco in una canzone lo dice, no? Forti però quelli duri che piangono contro i muri. È difficile che vedi un Emiliano disperato. Se si dispera tira dei cancheri in casa. Tra l'altro apro una piccola parentesi, Alberto, tuo padre ha avuto il coraggio di fare anche un disco in dialetto sassuolese, si dice così? Sassuolese. Si dice così? Ha fatto un dice sassuolese senza la U. Chiedo scusa, sassuolese. Ha avuto il coraggio di fare questo disco, tra l'altro anche molto carino, incomprensibile per noi qui del Veneto, ma insomma per chi ama Pierangelo era un disco anche molto carino, fatto veramente bene. Sì, tra l'altro è strano perché voi del Veneto, io mi ricordo quando venivamo, lui ci portava ai concerti su, chiedevate solitamente dei pezzi in dialetto. Era strano perché... Io ricordo un mirabile concerto a Mira di tanti anni fa, eravamo tutti seduti sul prato e tuo papà ha intonato un pezzo in dialetto e tutti sono rimasti entusiasti del pezzo in dialetto. Noi eravamo veneti, quindi il Emiliano è un po' difficile, però cosa vuol dire? Non ha confini, secondo me. Album che si chiama Saturday in Mente, se ti viene a mente. Ed è un brano che è un LP che nella copertina davanti è scritto in dialetto, di dietro c'è la traduzione in italiano. No, si capisce veramente niente. E questo qua fu fortemente, ma veramente fortemente voluto da Caterina, anzi io penso che se mio padre non avesse cantato in dialetto forse a Caterina non sarebbe piaciuto così tanto. Lei di Sassuolo voleva rispolverare le sue culture, certo. Le sue origini, le sue radici. Ha creduto molto in tuo padre comunque, Caterina, anche a Sugar. Senti, andiamo al 1976, l'anno della famosissima canzone che ha lanciato tuo padre. L'ascoltiamo e poi magari ne parliamo, cosa dici? Sì, mi sembra giusto. Ascoltiamo... Credo sia il pezzo più famoso, più rappresentativo di Pierangelo, ma non per questo il più bello, perdonami se mi stai ascoltando dal cielo, perché ne ha veramente tantissimi, però questo credo sia il pezzo più famoso della storia, della musica, del repertorio di Pierangelo Bertoli. Si chiama Eppure Soffia. Si riempie di schiuma il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte, il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte, un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, e invece le porta la morte perché radioattiva. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti. Vorranno inclinare le stelle, la guerra tra i soli. I crimini contro la vita li chiamano errori. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, carezza sui fianchi le montagne e scompiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli. Eppure il vento soffia ancora. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Beh, l'emozione sta lentamente prendendo il posto, lo spazio lasciato alla musica e soprattutto a questo grande artista che è rimasto dentro di me, e qui avere suo figlio veramente è un'emozione gigantesca. Alberto, ci sei sempre? Certo. Eccoti qua. Allora, diceva Maurizio... Alberto, questa è una delle prime canzoni ecologiche, secondo me. Cioè, parlava di cose importanti. Pierangelo è sempre andato avanti, ha sempre fatto degli argomenti che hanno sempre dato fastidio, nel senso positivo del termine. Sì, hanno dato fastidio, poi più che altro erano molto originali. Cioè, tu hai detto è la prima, in realtà è praticamente l'unica. Cioè, sì. Io ricordo un riparo per noi di Nomani, ma era una cover di un pezzo di Trox, ecco, va bene. Che forse si parlava della guerra atomica, eccetera. La guerra atomica, io in realtà ti sto dicendo sì, ma non conosco quel brano lì, quindi ammetto la mia ignoranza. Vabbè, indipendentemente da questo, giustamente è la prima canzone, è l'unica canzone ecologica. Parlando dei cantautori, ecco, io conosco molti brani dei cantautori storici italiani, anche dei nuovi, che devo dire che si difendono molto bene, anche se non vengono più chiamati cantautori. Sono... direi che sì, sia l'unica. Tra l'altro è la stessa cosa che dice Ligabue. Cioè lui l'ha fatta per uno spettacolo che fece il Live Earth l'anno scorso o 2 anni fa, non ricordo bene, e praticamente fece una versione di questo brano acustica molto lenta a suo modo, perché disse che questa era l'unica canzone italiana che parlasse di ecologia. Fatto strano, suo fratello l'anno dopo fece un brano che parlava proprio di ecologia, e tra l'altro cita eppure Sofia, quindi ringrazio, con la distanza ringrazio molto, perché dice proprio eppure il vento soffia ancora, c'è proprio questa frase. Quindi. È verissimo, verissimo questo. È del 1976, per chi non lo sapesse, giusto? Esatto, sì. Allora, che influenza ha avuto tuo padre per te, insomma, anche in casa, com'era, come si viveva questa notorietà e questo personaggio così illustre a contatto con la musica, insomma? Ecco, io ho cercato molte volte un paragone, no? Una cosa che facesse capire a tutti come può essere, perché in realtà, cioè, dall'esterno sembra una cosa così difficile, certo, no? Da comprendere, da capire, e poi se ci pensi bene è come, cioè, quanto ti ha influenzato vivere dove vivi per il tuo accento veneto? Certo, è una cosa normale. Sì, io, tu non te ne rendi conto, no, però esatto. In realtà per me sei un accento che è abbastanza notevole, cioè si sente. Certo, sì. Certo. E, vabbè, insomma, ovviamente se parli in radio ti controlli, magari anche meno. No. Però insomma, le origini non si possono nascondere. Certo. È normale che sia così, e anche bello che sia così. Certo. No, perché, io te lo dico, Alberto, perché io ho avuto modo di conoscere tuo padre anche di persona, ed è comunque sempre stato una persona semplicissima. Ciò un aneddoto che ho già raccontato qui in questa emittente, ma anche i miei amici lo sanno, io che quando assistevo ai concerti di Pierangelo insomma, mi capitava alla fine di restare lì e di fare due parole con tuo padre, e c'era una volta che stavo parlando veramente con lui e anche con altra gente, è arrivata una ragazza tutta trafelata di corsa lì con un blocchetto in mano, una penna, e gli fa: Angelo, me lo fai un autografo? Tuo padre, guarda, gli ha dato una dimostrazione di semplicità, è una cosa stupenda, io me lo ricordo ancora. Lui dall'alto della sua, ripeto, semplicità gli fa: ma tu che cosa hai capito del mio concerto? Questa, no, ma ti giuro, questa è rimasta adibita, non era veramente, non sapeva più cosa dire, è rimasta lì. Poi comunque tuo padre, sai che era una brava persona, una buona persona, gliel'ha fatto, gli ha messo sì una dedica, insomma, a questa ragazza, e poi lei se n'è andata, ma credo che avrebbe ricevuto una di quelle bastonate gigantesche questa ragazza, e comunque la dimostrazione che lui era veramente un personaggio straordinario, insomma. Sì, hai detto una bella parola, perché mio padre in effetti cioè, aveva un soprannome tra i suoi amici ed era Bastone, e dopo in dialetto è diventato Baglione. Lui ce l'aveva quelle cose, ogni tanto veniva fuori con questo fare un pochino da bastonatore. Vabbè, so. Bella aneddoto. Mi ricordo una volta che questa me l'ha raccontata in realtà non c'ero io, me l'ha raccontato il mio tastierista, che è stato il suo tastierista, che lui diceva sempre: vi presento il giovanotto del gruppo, che quando suonava con lui era il giovanotto, adesso invece è il più grande. La band. E allora una volta sono a, dove sono? Cagliari, direi. E allora arriva lì un ragazzo, ci avrà avuto 18 anni, e arriva: mi fai un autografo, Pierangelo? E allora mi fa: sì, certo, come ti chiami? Antonio. E allora mio padre lo guarda e dice: prova a dire Antonio. E lui: Antonio, no, Antonio, apri la bocca, Antonio. Lui: Antonio, ecco, bravo, proprio così. C'era, era terribile quelle cose lì, veramente. Qual è stata la canzone che lo faceva per ridere, bisogna dirlo, certo. Canzone, lo faceva poi per tirare su delle risate, perché poi lui era così. Lui scrisse un brano che c'è in quello che dicevi prima, no, in Shut Them In Maid, sì, che si chiama Edvige. E parla di questa qui che stava con suo marito, suo marito torna a casa, la trova con una, con uno, scusa, con uno, con un vecchio. Tu dice in un brano, cioè in un verso dice: tu pensando che potessi diventare matto, mi hai detto vai di là a lavare i piatti. Questa era, per lui era, cioè, a lui facevano molto ridere queste cose qui, però secondo me solo a lui. Sì, perché gli altri poi non capivano magari il senso del discorso che voleva fare, o sbaglio? L'ironia. Sì, l'ironia di quello che aveva lui, insomma, certo. Lui aveva una grande predilezione per i figli. Per te. I figli, lui si era a Bari e faceva un concerto a Bari, veniva a casa perché doveva stare in famiglia. Sì, me lo ricordo questo particolare. Era così. Io, la famiglia veniva prima di tutto. Io ho trovato, esatto, io ho trovato una dichiarazione, una frase di tuo padre che mi ha colpito molto, e la voglio dire, e dice: anche se non ho potuto mai muovermi davvero da solo, ho cercato di vivere una vita normale, avendo rapporti con le donne, una moglie e la benedizione dei figli. Cosa mi è mancato? Beh, non ho mai giocato a pallone, per esempio. Le donne erano loro la risorsa, mi cercavano e risolvevano i problemi. D'altra parte, si conquista una donna solo se lei è disposta a farsi conquistare. Sono loro che scelgono. Sì, erano proprio le parole di mio padre, classiche queste qua, sì. Io ricordo che diceva spesso, quando sentiva magari qualche suo amico farfallone, no? Ammoniva spesso, dice: è inutile che fai furbo, perché tanto sono loro che decidono, no? Quindi tu non fai un bel niente, al massimo ti metti lì come carne da macello e aspetti qualcuno che ti venga a comprare. Sì, aveva questa. Una cosa volevo chiederti, Alberto. Nella tua biografia ho letto che hai cominciato a studiare la chitarra con Aleite Corbelli, che era il turnista della Caselli. È stato tuo papà a darti il là per andare a studiare la chitarra, o è stata una tua scelta? Assolutamente. Assolutamente. Lui ci ha provato quando avevamo 3 anni, e comprò delle chitarre che si chiamano tre quarti, no? Cioè, sì, delle chitarre piccoline per i bambini, e ce l'avamo io, mio fratello e mia sorella grande, tutti e tre a imparare in salotto. Alla prima, al primo giro d'accordi, il più bravo riuscì a sbagliare solo 10 volte, e mio padre era una specie di corona di bestemmie. E quindi finì lì, l'esperienza finì lì. Dopo qualche anno, io mi ricordo che io avevo una bambina a scuola che veniva con la chitarra, diceva che stava imparando la chitarra, che a fine anno avrebbe suonato alla recita che si fa, che, sì, i bambini fanno assaggio, fine anno, per esempio, no? Sì, sì. Esatto. Allora io ci rimasi un pochino lì, perché ho pensato: cazzo, questa qua suona la chitarra, io sono figlio di uno che sa suonare la chitarra. Quindi un po' per sfida incominciai a andare lì con la chitarra di mio padre, bella grossa, e dissi: voglio imparare. Eravamo al mare ed era venerdì sera, arrivai a casa lunedì che sapevo già fare due giri, ed ero contentissimo. Eric Clapton, è così. Sì, sì. Lui ha spinto molto perché tu facessi il musicista o il cantante? No, lui ha spinto molto perché non lo facessi, e perché facessi il medico, come avevo iniziato a fare, avevo iniziato a studiare, e lui era molto molto propenso a quello, cioè lui spingeva molto che noi ci facessimo una, come si dice, un paracadute molto sicuro, cioè voi studiate, fatevi una posizione, che se poi succede anche qualche, cioè poi, a parte che sono l'unico che voleva intraprendere anche la sua carriera, il suo tipo di carriera, lui con me mi disse: tu studia che dopo vediamo, cioè il fatto è tu studi, ti fai un paracadute abbastanza grosso per poi far sì che se anche ti va bene con la musica, la musica è una cosa che va e viene, quindi metti che domani non ci sei più, però c'è un altro mestiere, perché la sua ossessione era la mattina. Io ricordo mia madre quanto era poveretta assillata da mio padre, perché mio padre tutte le mattine si svegliava e prendeva la matita e il suo block notes e faceva i conti delle spese e dei soldi che aveva, con la paura di andare in rovina di lì a tre giorni, ma tutti i giorni, cioè io, sì, io lo dico ridendo, però diventa una vera e propria mania. Cioè lui era, cioè lui con me diceva: io so fare solo quello, se mi tolgono questo io cosa faccio? Non posso neanche andare a fare l'operaio. No, in effetti un attimo c'era ragione, cioè, gli proposero di fare il centralinista al comune di Sassuolo, no? Sì. E allora lui disse sì sì va bene, allora gli dissero: quando facciamo la sede nuova l'ha inaugurata l'anno dopo che è morto. Avrebbe avuto una vita lavorativa veramente strana. Pensa un po', insomma. Insomma, questa era Bruna, insomma, lei, la mamma Bruna. La mamma Bruna, cioè, di fianco, veramente, questa è una delle frasi più trite e ritrite, però è molto vero, di fianco a un grande uomo ci vuole e c'è una grande donna, altrimenti l'uomo si perde. E questa grande donna ha dato tre figli, Emiliano, Petra e tu? Ha dato purtroppo solo tre figli. Purtroppo? Perché ha avuto anche alcuni aborti spontanei, quindi saremmo stati in di più, però insomma in realtà però c'ha, mia madre veniva da un matrimonio, cioè si era separata 5 anni prima di conoscere mio padre, quindi aveva già una figlia che è mia sorella Lorna, che è più grande, e quindi insomma in casa eravamo una bella tribù, eravamo in quattro bimbi. Certo. Era il 1979 quando conobbe tuo padre, giusto? No. Quando nacque mio fratello era il 79, lo conobbe nel 77 a luglio, a settembre vivevano insieme, l'anno dopo era incinta. Ecco. Una roba velocissima, è velocissimo. Io ne approfitto per far ascoltare un'altra canzone, visto che stiamo parlando di figli. C'è questa canzone che, come ti ho già detto in separata sede, io l'adoro perché rappresenta forse una cosa che molti quando sono giovani vogliono essere, cioè diventare padri. Questa canzone narra la storia di questo genitore che si sta immaginando come potrebbe essere la sua vita da papà, e si vede come, cosa potrebbe fare con questo pargoletto, con questo bambino in mano, magari dice, magari assomiglierà a te, o magari chissà cosa farò quando avrò tra le mani questa cosa. La vogliamo ascoltare, Alberto? Certamente. La canzone si chiama Dietro me, Pierangelo Bertoli. Cosa farò? Sarò furia o pazienza? Ho timore o speranza? Avrò gli occhi appannati. Io che sono animale, abituato a lottare, e non ho pianto mai le 100 volte che sono stato colpito, umiliato, e sono caduto. Chissà cosa farò quando inizia il futuro, ed un po' sarò morto, avrò chiaro il pensiero da gridarmi che è vero, non è la fantasia. Io che ho sognato di lasciare dietro me un grido, una canzone, una parola, una bandiera od un figlio, e non mi vergognerò di ridere di niente, di fare anche il pagliaccio, io che non l'ho fatto mai, di accarezzarti il viso, dirti grazie con un sorriso, e se ti farà piacere dirti che sembra proprio me. Chissà cosa farò quando avrò tra le dita l'incredibile vita, la fiducia nell'uomo, di passione e ragione, non dirò di ricordi, io che ho vissuto di ricordi, di canzoni, battaglie, di illusioni, non dirò più di ricordi, ma domani vergognerò di piangere di niente, di fantasticare già su quello che sarà lui, di stringerti le mani e appoggiarti la testa al seno, e se ti farà piacere dirti che sembra solo te, so già cosa gli dirò quando potrà sentirmi, quando potrà capirmi. Devi essere uomo che cammina nel mondo e che vuole invecchiare e ridere del sole, gridare insieme al vento e credere nel giorno che saprai cosa dire a tuo figlio. So già cosa gli dirò quando potrà sentirmi, quando potrà capirmi. Devi essere uomo che cammina nel mondo e che vuole invecchiare, e ridere del sole e gridare insieme al vento e credere nel giorno che saprai cosa dire a tuo figlio. Blu Radio, dai colore alle tue frequenze. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua, bellissima. Alberto, ti emoziona questa canzone? Beh, certo, insomma, sentire parlare mio padre così, poi sentire questa voce molto giovane, no? Perché certo. Noi, magari voi la sentite sempre uguale, invece io sento molto la differenza del fatto che erano 20 anni prima, 20 anni dopo, insomma, è più chiara, la voce è più giovincello. Certo. Tu hai 18 anni, hai cominciato a seguire tuo papà negli spettacoli, ma tu sei musicista rock perché hai svoltato verso il rock. E tuo papà in qualche momento era un grande musicista rock. Lui, io penso, una volta ho sentito Travis, che è un grande armonicista, no? Certo. Con una grande band, dire che lui era un bluesman. No, io non penso che mio padre fosse un bluesman. Penso più che si avvicinasse come stile di vita al rock, ma non in stile era un rockettaro, rock secondo maledetto. Me. Non un rock maledetto, no. Rock in senso di rock come parola semantica, cioè le sue emozioni arrivavano come delle badilate, come dei pugni in faccia, quindi era molto rock in questo. Quello che forse Travis diceva che mio padre era istintivamente un grandissimo musicista, cioè lui era un cantante che poteva cantare qualsiasi stile, lo si sente in uno swing, lo si sente in una bossa nova ed è sempre sempre sempre perfettamente calato dentro il genere, è incredibile. Certo, e poi dobbiamo ricordare che lui conosceva a memoria tutti i dischi di Frank Sinatra, quindi, o quasi. Sì, Frank Sinatra, Ray Charles, certo. Redding. Io sono andato, adesso che ho rifatto casa, no? L'ho sistemata, sono andato a prendere giù tutti i vinili che mi ha lasciato, che in realtà poi la metà di quelli che aveva lui, quando morì sua madre, non aveva un becco di un quattrino, no? E allora gli toccò di venderli per dare una mano in casa, per aiutare insomma a mangiare. Certo. E qualcheduno dopo lo ricomprò. E qualche molti altri no. Comunque io ho un mobile pieno di vinili tra l'altro consunti, perché la penna gli deve, la puntina gli deve avere mangiati vivi perché vuol dire che è stato sentito tanto il vinile, è una cosa positiva in ogni caso. Esatto. Suonato, perché mio padre diceva suona quel disco. Ah, ecco, ho sbagliato, è giusto, suonato, hai ragione. Alberto, ti ricordi il 1991? Fu l'anno che lui partecipò al Festival di Sanremo, giusto, con Itta Zenda. Che ricordi hai di quel periodo? È stata una decisione molto importante per lui, perché era contrario un po' ai festival, un po' a queste cose così, se non mi ricordo male. No, io non capisco perché, cioè in realtà lo capisco, però mi stupisco del fatto che la gente pensi che lui fosse contro i festival, contro... Questa era quella che girava come voce, dico. Sì, questa è la voce e capisco, perché visto che era comunque stato inquadrato come un cantante che sta fuori, un cantante che è dell'underground, un cantante piuttosto a sé, allora è ovvio che odi le cose mediatiche, le cose commerciali, ma in realtà chi fa musica la fa per farla conoscere e per venderla, cioè, dire, questo è lo scopo. Sì, ma lui se, lui, se non ricordo male, aveva una considerazione non molto alta del Festival di Sanremo, o mi sbaglio? Lui il Festival di Sanremo gli piaceva molto molto molto fino agli anni 80, l'aveva seguito, e poi dopo con la commercializzazione degli spazi, cioè lui diceva che era dagli anni 80 che quando passava un cantante in televisione, che fosse Sanremo o no, la persona che stava dall'altra parte della televisione, cioè lo spettatore, cambiava canale perché il cantante annoia. Questa era una cosa che non sopportava, perché ovviamente, cioè, non so se tu hai presente i Rolling Stones, no? Che facevano dei pezzi di Bob Dylan di cui lui era patito, no? Sì. E lui non poteva sopportare il fatto che venivano tagliati dei pezzi di testo. Cioè, i Rolling Stones facevano dei pezzi di Bob Dylan senza tipo metà testo, e lui questo lo faceva incazzare come una bestia. Perché per lui la musica aveva un senso tutta quanta insieme, a pezzi, e secondo me aveva ragione. A pezzi è, non so, un piatto di maccheroni senza i maccheroni. Certo, chiarissimo. Vogliamo ascoltare la canzone che lui ha portato alla Festival di Sanremo, poi magari ne parliamo? Certo. Ok. Allora, spunta la luna dal monte con i Tazenda, Festival di Sanremo 1991, esordio di Pierangelo Bertoli al Festival. Fammi dire anche che cantò con il grandissimo Andrea Parodi, di cui è uscita tra l'altro poco tempo fa una sua biografia, se c'è la possibilità, una monografia, se c'è la possibilità di fare un po' di pubblicità, mi sembra anche giusto, perché è stato un artista internazionale, nessuno lo dice, anche questo è un po' triste. No, ma fai, se vuoi parlare di più parla pure tranquillamente, Alberto, puoi dire quello che vuoi, vabbè. Facciamo ascoltare la canzone allora. Ok. Spunta la luna dal monte. Notte scura, notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera, per altre vie, con le mani le mie, cerco le tue, cerco noi due. Strade di fango, cercando la luna, cercando, tantandoti nella mente, sfiorando tutta la gente, a volte sciogliendosi in pianto, un canto di sponde sicure, ben presto dimenticato, voce dei poveri resti di un sogno mancato. Di uno in sosa non si dimenticato. sera, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Canzone memorabile questa, penso che ancora ad oggi più di qualche persona la ricorda con questa frasetta, questo ritornello spunta la luna dal monte, ripetuto sempre comunque, anche i giovani d'oggi se la ricordano questa canzone. Che ne pensi, Alberto? Ma io guarda, faccio molti concerti in giro per l'Italia e devo dire che sì, quando faccio questo pezzo qua la gente la conosce, praticamente la conoscono tutti, insomma, certo. Sono molto contento di questa cosa qua e sono contento anche del fatto che seppur sia una canzone molto orecchiabile ha un testo molto importante, molto, cioè è musica molto, secondo me, molto alta e non è stata trattata come i soliti tormentoni che davano insieme a Sanremo, no? Che escono da Sanremo, che dopo un po', insomma, dici che vabbè, bella, bella, ma che due maroni, no? E allora, insomma, io sono contento anche di questo fatto qua, certo. Contento del fatto che ci sia stata riconosciuta un'artisticità del pezzo molto, molto grande. Ricordiamo che il testo era di tuo papà, il pezzo in origine si chiamava Disamparados, praticamente era in dialetto sardo, tuo papà scrisse poi in italiano, riprese in italiano. Sì, lui in realtà andò così, praticamente Andrea era nello studio del produttore artistico che gli faceva sentire un pezzo di questo brano e disse: guarda, c'è Bertoli che ha accettato di andare a Sanremo, perché non glielo presenti? E lui gli mandò questo brano, cioè solo la parte in sardo, certo. E lui fece tutto il resto, è una canzone composta a quattro mani. Ah, bellissimo. Sai che non ricordo come è arrivato poi alla fine come classifica, come arrivò lì? Terzo, sì, esattamente, è arrivato terzo. Sesto. E tra l'altro come vendita invece arrivò primo come vendito quasi. Sì, arrivò primo, sì. La solita cosa di Sanremo, Sanremo. Sì, appunto Sanremo. Quindi per chiudere il discorso, non era un pezzo sanremese, non era uno standard sanremese, era un pezzo che ricordava anche qualche melodia folk, la commistione tra Sardegna ed Emilia, una perfetta commistione secondo me, era un pezzo decisamente fuori dei standard sanremesi, ma qualche volta lo standard sanremese viene superato ed è giusto che sia così. Esatto. E poi comunque lui non contento ci riprova l'anno successivo. Ci ritorna l'anno successivo spinto molto molto da mia mamma, che diceva che comunque sì, doveva tornarci e doveva portare una canzone più Pierangelo, e arrivò con una mazzata di quello terrificante che è Italia d'Oro, che è un brano tra l'altro molto, molto politico e molto visionario, perché di lì a poco, di lì a qualche mese sarebbe scoppiata Tangentopoli e quindi lui sarebbe diventato il cantante profeta, che di profetico, come diceva lui, non c'era proprio niente. Lo sappiamo tutti che il Parlamento è abitato da grossi disonesti e mafiosi, quindi non era quello che era strano era che fossero coinvolti proprio tutti di tutti i partiti, ecco, quello sì, un pochino. Giustamente non c'erano barriere dal punto di vista di colorazioni, chiaramente. È un testo molto duro, però un duro che arrivò al quarto posto per niente. No, arrivò al quarto posto, esatto, perché, ma vedi, io devo essere sincero, io riguardando non penso, perché mio padre comunque, quando tutti quelli che mi parlano di mio padre mi dicono di aver visto una persona che quando ce l'avevano di fianco si dimenticavano che fosse handicappato, ecco. Certo. Però guardando adesso questi reality qua, che c'è un ragazzo che balbetta in una maniera molto grossa, no? Sì. In X Factor, sì. E sembra che sia, insomma, il sentimento pietistico in Italia sia molto sviluppato a causa della Chiesa Cattolica. Ma al di là di questo fatto qua, io penso che ci voglia anche qualcuno che muova le braccia sotto, altrimenti quel fuoco del pietismo non si accende. Sicuramente faceva impressione vedere una persona con una grossa dignità, veramente grande, arrivare lì e non fare proprio nessuna piega davanti alle telecamere. Addirittura, come racconto sempre, racconterò per tutta la vita, quando gli dissero: lei Bertoli viene a Sanremo, però lei a Sanremo si deve mettere una coperta sulle gambe, li mandò a fare in culo tutta la commissione, una roba che tra l'altro ormai andava a litigare anche con la casa discografica. Però giustamente lui difendeva la sua integrità di persona e non di povera bestia ridotta su una carrozzina, che questa è una stronzata gigante, insomma. L'ascoltiamo questa canzone? Dai. Alberto, ci sei? Italia d'oro? Italia d'oro. Sì, certamente. Ascoltiamo Italia d'oro. Certo. Allora. Ok. Ecco. Eccoci qua, Alberto, ci sei? Certo. Sempre qui, presente. Una canzone dura questa, aggressiva. È una canzone molto aggressiva. Ma in realtà Italia d'oro sembra proprio... ci sono delle canzoni di mio padre, no? Che sono sempre più attuali. Questo non so se dire che è una cosa bella o una cosa drammatica. Sì, purtroppo. È quello il discorso. Ascolta, cosa ti è rimasto del ricordo di tuo padre? Qual è stato il suo più grande, come dire, insegnamento che ti ha dato? Ma io, guarda, rispondo sempre a questa domanda qua, rispondo sempre nello stesso modo, perché in realtà è strano, cioè, per me, io sono il figlio con cui probabilmente ha parlato di più, perché io avevo molti interessi, più interessi comuni che gli altri figli, quindi io andavo spesso, mi intromettevo spesso, no? E quindi cercare proprio una cosa specifica non è facile. Io penso che sia più che altro il avere rispetto per le libertà e i principi degli altri, ma soprattutto pensare con la propria testa, cioè avere un punto di vista personale. Mio padre mi diceva, vedi, io ho dovuto sviluppare, sempre nella maniera bertoliana, come si dice, ironica al sapore di vetriolo, no? Io ho dovuto sviluppare un altro modo di vedere la vita, perché vedo la vita all'altezza del sedere degli altri, no? C'è un po' in modo un po' più volgare, comunque. Sì, sì, abbiamo capito. Sì. Il problema era questo, era tu non guardare sempre le cose come te le fanno vedere, no? Non stare lì sempre dietro a quello che ti hanno detto, perché probabilmente lì dietro c'è qualcos'altro. Adesso, per esempio, ti faccio un esempio, che io sono ancora qua che sto rimuginando nel vedere questo specie di energumeno che si è arrampicato sopra allo stadio, sopra il gradinato dello stadio, così a urlare e a fare del casino assurdo. Io penso sì che sia un deficiente, questo sicuramente, però è un po' riduttivo pensare che uno si prenda la briga di farsi delle ore di pullman e rischi la galera per niente. Oddio, la madre degli stupidi è sempre incinta, però quando ad esempio è venuto fuori un articolo di Berenghi, no? La Iena, che la Iena, che lo chiamano la Iena, però scrive sulla Stampa, e lui dice si stupiscono che vengono qua e fanno del casino, no? E in modo provocatorio scrive avranno bombardato male. Non lo so, io adesso questo qua provoca solo per provocare, come Crociani, però al di là di questo fatto qui, io penso che pensare con la propria testa sia doveroso in un mondo dove la mediaticità è diventata talmente massificata che se uno vuole diventare un pecorone, anzi anche se non vuole, ci mette 2 secondi. Bisogna avere un atteggiamento critico su quello che arriva dall'esterno, altrimenti secondo me si rischia di perdersi. Giusto? Certo. E tuo papà, visto che pensava con la sua testa, spesso e volentieri anche per quello è stato un po' messo da parte, anche per quello secondo, in alcuni momenti. Sì, è stato messo da parte perché era scomodo sia da vedere, no? Sì, perché comunque lui, come dicevo prima, certo, sia quello che diceva, cioè voglio dire, io mi ricordo una volta al Controfestival, dopo quella canzone che avete appena messo su, c'era Ferrara, Gad Lerner e quello che con gli occhiali, Mughini. E allora, vabbè, Gad Lerner dà la parola a Mughini, Ferrara non dice niente, Mughini fa un cappello, poi dopo a un certo punto dice no, perché insomma va bene Bertoli, le solite cose di uno di sinistra, avremmo potuto sentirle dire da qualsiasi altra persona, al che mio padre in studio lo guardò, ma senza essere incazzatissimo, lo guardò e disse poi si rivolse verso Gad Lerner, se voi pensate che io stia qui a ascoltare queste stronzate vi sbagliate di grosso, girò la carrozzina e uscì dallo studio in diretta. Quindi piuttosto scomodo. Sì. Beh, ma lui è sempre stato così comunque, lui non aveva, ha sempre volato basso, è stata una cosa che mi ha sempre insegnato anche il sottoscritto, di volare sempre basso, di non alzare mai la cresta, di essere sempre se stessi. Questo è un insegnamento che mi ha dato tuo padre. Sì, è vero, quello lo diceva spessissimo. Che voglio dire, non nessuno è venuto qua, non c'è nessun messia. Poi vabbè, noi non siamo cattolici, non siamo credenti, quindi il fatto di ognuno, non avere un messia, ognuno è libero di essere come vuole, giusto? Certo, ognuno, però questa cosa del messia forse gli dava molto fastidio, cioè che la gente cercasse anche, lui è stato in un partito politico quando era giovane, ma lo ricordava, cioè a noi lo ricordava come un'esperienza piuttosto negativa della quale lui era un dovere, lui ci doveva andare perché primo non aveva da mangiare, questi qua gli avevano offerto uno stipendio, e secondo lui aveva ancora era stata presentata poi come questo partito è stato presentato come un'apertura artistica ad un movimento idealista. Poi in realtà poco dopo incominciarono quegli espropri dentro alle coppe, quelle cose lì. Mio padre fece le valigie e tornò a casa perché era andato a vivere a Milano, scappò via. In realtà avere un partito politico, una chiesa, qualcuno che ti dice come pensare è pericoloso per quello, perché si tende a non pensare con la propria di testa, certo. E quindi a essere umili probabilmente si raggiunge anche questo, dire vabbè insomma io varo poco però almeno ho le mie idee. Allora io direi di chiudere la pausa dedicata a tuo padre con l'anno 1990, che è un anno un po' storico per lui, cioè lui è stato quando ha cambiato casa discografica, se non sbaglio, dove è uscito questa canzone e tutto l'album che si chiama appunto Oracoli. E in questo disco c'è una canzone che era stata gettonatissima per questa sera, poi io ho detto no, guarda, non è in previsione, si chiama Chiama Piano con Fabio Concato. Una canzone bellissima, tra l'altro, stupenda, insomma. Sì, io te l'ho chiesto un'altra perché penso che in quel CD lì, come dice mio amico Marco Baroni, che è un autore che è stato a Sanremo, adesso non so se vi ricordate, certo. Adesso scrive con Neck, lui dice che, e ha sicuramente il mio appoggio, dice che molti di dei testi presenti in quel disco lì sono probabilmente tra i più belli di quelli che abbia mai scritto mio padre. Oracoli è geniale perché unisce la profondità all'ironia. Eppure è stato uno dei dischi che non ha avuto un successo enorme. Ma in realtà non ha avuto un successo mediatico, cioè, sì, se io ti dicessi ad esempio, no? Ma tu hai sentito l'ultimo disco di Caposele in radio? Io sfido chiunque a dirmi di sì perché non è vero, esatto. Però Caposele Caposera però ha venduto 150.000 copie l'ultimo disco, certo. E adesso vendere 150.000 copie vuol dire che hai venduto tanto. Sì, questo è vero, dobbiamo sottolineare che aveva un pezzo molto trainante l'ultimo di Caposera. È bello, è bello. Sì, è sentito poco, però ci è sentito qualcosina. Da noi l'abbiamo trasmesso in ogni caso. Bravi. Okay. Noi facciamo sempre ascoltare canzoni e musica un po' particolare. Senti, io allora chiuderei questo spazio dedicato appunto a tuo padre, poi parliamo solamente di te, con appunto la canzone Oracoli. Prima però volevo chiudere con un'altra frase che ho trovato di tuo padre, che mi ha colpito molto, e dice: io sono nato libero, mia madre era per la libertà assoluta, ho cercato di vivere una vita normale, mi è andata bene, avevo un fisico stortignato dalla metà in giù, ma molto forte, e l'ho trattato malissimo, ho faticato e fumato troppo, guidato tanto, fino a 800 km al giorno per 300 giorni all'anno. Oggi il corpo mi dà, e con ragione, qualche segnale di stanchezza, sento più adesso che quando ero giovane la condizione di handicappato. Che mi dici? Ti dico che è vero, cioè mio padre, io mi ricordo io tutte le volte che vado al sud, no, che faccio queste cose, questi concerti, salta sempre fuori qualcuno che mi dice ho fatto anch'io un viaggio con tuo padre, guidava lui dopo i concerti e guidava 800 km, è vero, cioè dopo avere fatto, tra l'altro lui soffriva di mal di schiena perché aveva una scoliosi data dalla poliomielite, dopo aver fatto non so, tipo 3 ore di macchina dal concerto precedente alla data della sera, poi 2 ore di concerti, 1 ora e mezza di autografi e chiacchiere con tutti che non si risparmiava assolutamente, montava in macchina e tornava a casa. Lui è veramente, la sua vita l'ha vissuta tutta. Certo. E ci ha dato al massimo, ovviamente ha fatto qualche errore. Ci ha dato molto. Uno di questi errori era fumare 3 pacchetti di sigarette al giorno, non c'è niente da fare. Quando, almeno che tu non sia baciato in bocca dalla fortuna con 60 sigarette al giorno, muori. Insomma. Certo. Dai, chiudiamo questa parentesi dedicata a Pierangeli con Pierangelo con Oracoli. Vai Massimo! Campi di zingari con sfere che predicano il futuro. Esseri timidi che cercano qualcosa di sicuro, che ripagano a pronti contanti false lettere dell'aldilà e decidono cose importanti che la mano gli confermerà. Schiere di giudici si affidano a stregoni stravaganti, noti chirurghi che ricorrono a diagnosti necromanti. Se innocente finisci in galera, è una zingara che giudicò, e magari una vecchia megera ha deciso chi ti operò. Politici che credono nel mazzo delle carte chiedono tremuli se fare un sacrificio a Giove o Marte, pronti a spendere qualche stagliere o anche fette dell'umanità per qualcosa che possa servire a lasciarli dove sono già. Diamanti si circondano di filtri misteriosi, corpi ormai logori s'abbuffano di cibi velenosi, mentre sorge dal fondo dei secoli qualche dio che dà la virilità. Tutto un mondo che crede agli oracoli si incorona di imbecillità. Sui giornali giurano di essere discesi dagli spazi siderali. Oggi il clero rimane impotente perché un giorno il potere sfumò, mentre un tempo con gesto valiente risolvevano con un falò. Attente ai mutamenti del mercato, comprano e vendono denaro nel momento divinato, mentre un mare di piccoli sforzi si dichiara sconfitto di già. Una storia di corsi e ricorsi premia Giuda che la bacia. Sono le 22 e 0 minuti. Ok, adesso parliamo dei tuoi progetti. Difficile, Alberto, portare avanti un discorso chiamandoti Bertoli, un discorso che vuole essere assolutamente personale, questo voglio dire. Guarda, è difficile comunque portare avanti un progetto adesso, se non sei tirato dentro a queste major, al circolo, al grosso circolo, perché i circuiti piccoli ci sono, però farsi strada lì richiede più tempo che una volta. Quindi in più io mi chiamo Bertoli, questo può essere sia una cosa positiva, cioè che magari mi ascoltano più volentieri, e parlo dei discografici, certo, degli addetti al lavoro, ma dall'altra parte poi dopo hanno più reticenza a farti firmare un contratto a buttarsi, no? Con te, a provarci, perché comunque non ho detto che sono figlio di Albano, hai capito? Non sono, che sono figlio di uno che... Certo. No, ma sì, sì, ho capito che vuol dire. Cioè io sono figlio di uno che come dire spaccava un po', rompeva un po', e quindi come dire, la mela cade poco lontana dall'albero, e quindi anche tu poi in più c'è il fatto che i figli di solitamente in Italia chi è che vende? Cioè è vero che adesso Cristiano sta facendo una grandissima tournée di André, sì, però è vero anche che sta facendo una grande tournée con i pezzi di suo padre. È verissimo. Quando cantava i tuoi, insomma, si fa sempre un po' fatica. Insomma. Certo, però ho visto fra le note che ho strapolato, tu hai anche partecipato a Rocky Horror Picture Show, è una cosa bellissima. Io... Hai fatto due parti perfino, due parti ti hanno affidato. Sì, esatto, facevo una doppia parte perché in realtà la prima parte non esisteva, sì. Faceva una canzone e poi finiva lì la parte, e l'altra invece era, guarda un po', un dottore che era su una sedia a rotelle. E quindi praticamente la cosa divertente era che il regista se lo immaginava, però non che si chiama Max Croci, spero sia all'ascolto. Lo salutiamo. Praticamente lui non, penso che se lo immaginasse, però non aveva il coraggio di chiedermelo, no? Che sapessi andare sulla carrozzina, sapessi insomma girarci bene, ma visto che io la carrozzina ce l'avevo in casa da sempre, sapevo andare anche su due ruote, anche per fare delle evoluzioni un po' particolari, no? E quindi lui sfruttò questa cosa qui per farmi ballare in mezzo alla gente sopra il palco su due ruote schivando la gente, no? Sono capito, una cosa un po' così. Diciamo che ho avuto un'infanzia ricca di, perché la considero ancora infanzia io quella, una giovinezza molto di piacere, ecco, mi piaceva cantare, mi è sempre piaciuto cantare, fare l'interprete. Ho cantato anche una cosa che con me c'entra ben poco, che si chiama Xavier International, su YouTube c'è, è stata una cosa insieme a Sara Sei e un tenore e un soprano e una mega orchestra di 100 elementi, abbiamo fatto delle repliche a Roma, Napoli. Io mi sono sempre dato anche dal punto di vista dell'essere interprete, perché pensavo che inserendosi prima dentro agli altri si capisse meglio anche come si era fatti, e in effetti direi di aver capito bene dove sono le mie qualità più spiccate un po' meno quelle un po' meno riconoscibili, ecco, grazie a questa cosa. Quindi hai cercato praticamente di allargare il campo di azione, non tipicamente solamente musicista semiconsentito rock, perché tu sei musicista rock, di fare anche altre cose. Sì, ho cantato swing, ho cantato jazz, ho cantato tantissime cose, poi tra l'altro ho fatto laboratori di teatro insieme ad Andrea Pierdica, che è un bravissimo attore e adesso è diventato anche un bravissimo docente, fa tournée in tutta Italia, insomma, l'arte mi piace un pochino tutta, ecco. E poi hai fatto una cosa che mi ha fatto molto piacere scoprirlo, che sinceramente non lo sapevo, forse te ne ho già parlato in privato, hai collaborato con i Sempre Noi, li abbiamo avuti qui in studio, hanno cantato in live il loro ultimo lavoro, l'ultimo CD, e sapere che hai cantato e lavorato per loro è stato veramente piacevole scoprirlo. Sì, io sono molto legato a quei ragazzi come lo era mio padre. Uh-huh. Sono, diciamo, i fratelli sfortunati dei nomadi, uh-huh. Cioè, mi sembra proprio riduttivo dirlo così, no? Cioè, in realtà loro hanno avuto una loro vita artistica, l'hanno tuttora, e sono oscurati, direi, da ecco, il marketing, perché questo non è altro che marketing, cioè voglio dire i pezzi famosi li fanno anche loro e sono componenti anche loro degli ex nomadi, certo. Quindi non c'è molta ragione perché siano meno in luce, e hanno fatto dei brani e un disco secondo me di grande qualità, sì, molto bello, quindi voglio dire, secondo me la loro poca visibilità è dovuta al fatto che magari qualcun altro ha più amicizie. Certo. Il marchio. Ecco, tu giustamente hai sottolineato il marchio, quello. Alberto. Sì. Alberto. Sì, sì, sì. Anche tu sei un figlio di? Certo. Ascoltiamo. No, figli... io sono un gran figlio di. Ascoltiamo figli di Angelo. Oh, yes. Alberto Bertoli. È da tempo che mi guardo intorno. È da tempo che mi sono accorto. Chi ci guarda per conoscerci un po' meglio prende quello che non sa di te. Sera. Blu Radio Sera. Ok Alberto, devo chiederti una cosa. La formazione attuale con cui giri, i musicisti che ti accompagnano? Sì. Qual è? Allora, la formazione attuale è, come dicevo prima, Moreno Bartolacelli alle tastiere, sì. Storico musicista di mio padre, certo. E adesso è il mio tastierista. Poi al basso abbiamo Giambattista Giorgi, che è un grandissimo bassista di Bologna, che ha girato con tantissimi. Ed è molto che ce l'hai anche, vero? Come? È molto che ce l'hai questo bassista. Gian Battista, che io chiamo GB. GB. praticamente è una vita che suona con me, come altri, insomma, che sono in altro tipo di formazioni, ci stavano dei legami dove magari lui è una persona molto trasparente, a rischio anche di ingenuità, e quindi da una parte mi viene anche così da proteggerlo, no? E dall'altra parte anche un po' da tirargli dei cancheri, perché a volte è veramente esagerato. Poi alla chitarra c'è Matteo Ganassi, che è un grande chitarrista, è stato il chitarrista di Cremonini, di Silvia Mezzanotte, insomma un grande turnista. E poi alla batteria, fino a qualche tempo fa c'era Marco Bolgiani, e adesso penso ci sarà, io spero, Alberto Pavesi per i prossimi, per, sì, le prossime date, che è un grandissimo, che suona con Omar Pedrini, sì, che suona con Againor, suona con, insomma, è un grandissimo batterista. È una cosa che traspare, è una cosa che traspare da questo, parlavo anche prima con Agostino mentre il pezzo andava, l'amicizia che c'è fra di voi, lo scambio di idee musicali che continua in continuo movimento, è una cosa bella, secondo me, positiva al 100%. Secondo me è molto positiva. Mi dispiace solamente il fatto di ogni giorno io mi sveglio alle 6.45 del mattino e vado a lavorare a 100 km da casa a fare il logopedista in una scuola speciale per bambini disabili e handicappati. E ogni giorno torno a casa mia. Questo ovviamente ruba un sacco di tempo alla parte musicale, e non è che lo faccia solo perché il lavoro mi piace molto, però lo faccio anche perché bisogna stare al mondo, insomma, non stare e vivere con le proprie forze, non con quelle degli altri, insomma. Se mio padre mi ha lasciato qualcosa, io vorrei lasciarla, insomma, più che altro a mia madre, perché è lei sua moglie, e così anche i miei fratelli. E quindi quello che mi dispiace è non avere abbastanza tempo per far sì che questo tipo di idee, questo tipo di scambi, che abbiamo tutti formazioni molto differenti, e quindi la diversità, come penso abbiate capito, sì, io penso e tutta la mia famiglia pensa, sia una cosa che arricchisce molto, e questi momenti però vengono meno perché insomma bisogna stare al mondo, lavorare anche in altri settori, e quindi sì, insomma, io prendo le ferie per andare a lavorare, lo dico sempre, perché così. Io ricordo che nei concerti di tuo papà, che sudava, era tutto sudato, finiva i concerti, e Alberto è tutto sudato anche lui, c'è molto grinto, molto pathos. Quanto dai sul palco? Ma io cerco di dare tutto quello che posso, poi sono un po' frenato dal fatto che saltassi come mi viene, probabilmente farei la figura del coglione, no? Perché non si, cioè, voglio dire, non puoi andare sul palco e fare troppo l'asino se poi dopo ti metti a cantare a muso duro. Non ci sta, perché è una dichiarazione di poetica, una dichiarazione di intento. Non vuol dire stare fermi sul palco, ma non vuol dire neanche dire mettersi, non so, vestiti strani e fare cose esagerate. Almeno per adesso, ecco, adesso io non penso che sia quello il target dove andare a prendere. Però sì, il fatto che comunque ci sia molta tensione, molta voglia di suonare, molta voglia di trasmettere, perché molto spesso, no, le canzoni che diventano famose si perde un po' il senso per cui sono state scritte, quindi riarrangiandole si cerca di dare un taglio per fare sì che passi il messaggio. Non passi il fatto che noi siamo bravi a suonare, che quello lì poco importa, perché al mondo ci sono migliaia di persone, no, che suonano bene. L'importante è arrivare al cuore della gente. Alberto, se io passassi di là, in centro a Sassuolo, ce l'hai qualcosa da bere per me? Beh, quello non mi manca mai, dai. È l'inizio della tua canzone, la canzone scritta da Ligabue. Sì, è scritta da Luciano, che mio padre piacque molto. Uh-huh. È un brano che lo racconta da un punto di vista esterno, e infatti lui era un po', voleva cantarla, era già malato e non riuscì, però era un po' reticente perché diceva: ma non posso io cantare un pezzo così, dovrebbe cantarlo qualcun altro. Purtroppo ha avuto ragione, perché avrei voluto proprio sentirla cantata da lui. In ogni caso è un brano secondo me molto molto bello e molto intenso. Una curiosità mia, Ligabue la canta lui in qualche suo disco? No, ma se non la canta io non penso che non sia perché lui è superiore. Probabilmente penso che questa cosa mi aiuti in un qualche modo. Certo. No, siccome l'ha scritta lui, pensavo che magari, sai, in qualche disco così magari la mettesse, dicendo appunto che è canzone dedicata a tuo padre, eccetera, e che l'ha scritta per te, insomma, praticamente. Ma guarda, io probabilmente un giorno glielo chiederò, perché Comunque io ce l'ho la versione sua, chitarra e voce. Ah, ecco. Ed è, sì, sì, certamente. E, ed è veramente lui. Cioè, è proprio suo, la canzone lì è sua. Magari quando glielo chiedi, lo chiedi in diretta così ascoltiamo anche noi. Lo facciamo sentire qui in radio. Che dici? Non sarebbe male sentire Luciano qui in diretta con te. Ragazzi, va bene, accetto. Beh, pensaci tu, Alberto, allora, va bene? Vabbè, okay. Senti, io ho la macchina, sto passando per Sassuolo, la vogliamo ascoltare? Voglio bere qualcosa di tuo. Vai, spara. Se passi di qua in centro a Sassuolo, qualcosa da bere ce l'ho. Se passi di qua ci trovi un uomo che fa sempre quello che può. Un uomo che crede a certe promesse perché ha deciso che sì, ho sempre creduto che più a quelle promesse che chi a me le ha fatte così. In centro a Sassuolo qualcosa da bere ce l'ho. Se passi di qua ci trovi un uomo che fa sempre quello che può. Un uomo che crede a certe promesse perché ha deciso che sì. Ho sempre creduto più a quelle promesse che a chi me le ha fatte così. Le cose cambiano, cambiano, cambiano, sì, ma le cose non cambiano me. Le cose cambiano, cambiano, cambiano, fammi il favore. Parla per te. Almeno mi sembra, ma ho posto negli occhi che ho, e in ogni mio figlio e nei figli dei figli c'è posto per quello che so. Non dico sia giusto quello che penso, ti dico che è giusto per me. Se passi di qua a bere qualcosa, rispetta chi pensa da sé. Le cose cambiano, cambiano, cambiano se, ma le cose non cambiano me. Le cose cambiano, cambiano, cambiano, abbiamo capito. Parla per te. Trovi un uomo che merita un nome così. Le scelte che ho fatto e i segni che ho addosso, le volte che ho detto di sì. Se passi di qua ci trovi un testardo, non devo spiegarti il perché. La vita ti cambia, o almeno ci prova, però fa fatica con me. Le cose cambiano, cambiano, cambiano se, ma le cose non cambiano me. Le cose cambiano, cambiano, cambiano, fammi il favore, parla per te. Le cose cambiano, cambiano, cambiano se, ma le cose non cambiano me. Le cose cambiano, cambiano, cambiano, abbiamo capito. We'll be right back. Radio, dai colore alle tue frequenze. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Alberto, i progetti di Alberto adesso, cosa hai in mente? Stai incidendo qualcosa? Cosa bolle in pentola? Sì, volevo dirvi che in realtà avete messo sulla la prima incisione che abbia mai fatto di questo brano qua, che ero acerbo, veramente, si sente anche come dicevo prima, la voce giovane, giuliale. Vabbè, e i progetti che ho adesso, io scrivo, sono uno che si abbandona molto alla scrittura, e quindi sono in produzione di molti brani. Il problema adesso è trovare quel qualcosa in più che possa far sì che non dico sì, arrivare ai massimi sistemi, però almeno fare capire al mondo che faccio musica anch'io, capito? Quindi trovare un canale con il quale esprimermi e far sapere all'Italia almeno che siamo, che ci sei praticamente. Beh, suoni, però ci sei, che suoni sicuramente, per avere il supporto, voglio dire, questo, intendi questo? Esatto, cioè in effetti hai ragione, cioè molta gente fa figli di, tra l'altro, fa molto meno di me e ha molto meno seguito, molte meno date. Quest'estate abbiamo lavorato molto, quindi mi rendo conto che in effetti sono abbastanza fortunato, però un conto è farsi largo tra le persone, e come dicevo prima ci vuole molto di più, ed è sicuramente una bella gavetta, perché impari a stare sul palco, impari a parlare in una maniera un pochino più sciolta, e d'altra parte però ti manca sempre il fatto di arrivare a più. Mi è caduta la linea. Pronto, ci sei? Alberto, ci sei? È caduta la linea. È caduta la linea. Intanto ci ascoltiamo. Sentiamo il pezzo, sì, dopo lo riprendiamo. Sì. Ok. La panchina. Ed è strano che da qui uno passi senza accorgersi cos'è. Posto di periferia, senza grandi monumenti, senza oceani, dove tra birre scure dentro a una musica pazza, tra strade in re minore, lì a dirci di noi. E rimani lì, fermo immagine, e discuto con me stesso se sei sempre stata lì, o che ne so. E rimani lì, fusa dentro me, come quell'accento forte che racconta tutti di dov'è che sei. E rimani lì, e rimani lì, e rimani lì, tu rimani lì. La panchina, l'autobus, le parole sono solo virgole tra noi. Ridi ancora tanto per, bevo ancora da quegli occhi vividi. Prima canzone, primi corpi stancati da un letto. Tempo, lui non ci sbiadirà. E rimani lì, fermo immagine, e discuto con me stesso se sei sempre stata lì, o che ne so. E rimani lì, fusa dentro me, come quell'accento forte che racconta tutti di dov'è che sei. E rimani lì, rimani lì, rimani lì. E con la vita in mano, dopo che gli anni passano, scrivo io per vederti, certo che non rispondo. E discuto con me stesso se sei sempre stata lì o che ne so. E rimani lì, fusa dentro me, come quell'accento forte che racconta a tutti di dov'è che sei. E rimani lì, e rimani lì. Radio. Sai, qualche volta i telefoni fanno qualche scherzo e Alberto, qualche succede anche questo. Fa parte della vita anche questo, purtroppo. Giustamente. Ok, giustamente così. E siamo in chiusura, Alberto. Ci vedremo qua? Venerai a suonare qua a Padova? Spero a breve. Adesso stiamo un pochino in trattativa, speriamo che di mettere una data. Comunque voi consultate il sito www.albertobertoli.it e di lì trovate sicuramente le date. Beh, io e te siamo in contatto, quindi magari ci sentiamo, mi comunichi, giusto? O un'esclusiva. Alberto, noi ti ringraziamo veramente della partecipazione, è stata una serata splendida, anche ricordo il tributo a tuo padre, ma soprattutto l'augurio è per te, per la tua musica, per la tua carriera e per quello che stai facendo, insomma. Grazie mille, grazie a tutti, grazie di aver ascoltato la mia musica e quella di mio padre. Ci salutiamo a muso duro? Sarà meglio. Ecco. Okay. Ciao, grazie Alberto, buona serata. Ciao ragazzi, ciao Alberto, grazie. Di tutto. Buona serata da Agostino e da Maurizio. E ci vediamo nella prossima puntata. Lasciamo lo spazio ad Alberto con la sua classifica rock, la musica rock, sempre qui a Blu Radio Veneto. Ciao. Adesso che farò, non so che dire, e ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano il salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro. Un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro. Un guerriero senza Non so se sono stato mai un poeta e non mi importa un cazzo di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è, però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi matura al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita.